Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un Abuso al Giorno. La trasmissione, ormai lo sapete, che quotidianamente vi accompagna da oltre un anno nei vostri percorsi diurni e oserei dire quasi notturni, visto che in replica andiamo alle 20:45. Oggi parliamo di cave, di attività estrattive. Ne parliamo perché abbiamo ricevuto una bella mail da parte di un radioascoltatore di Castelfranco Emilia in provincia di Modena. E ne parliamo perché ovviamente il problema che riguarda questo comune in realtà riguarda centinaia, forse migliaia di comuni in tutta Italia che hanno a che fare con nuove concessioni per cave o per proroghe di concessioni, senza parlare poi della piaga delle cave abusive che hanno, diciamo, martoriato interi territori italiani, basti pensare alla provincia di Caserta. Allora, le attività estrattive però servono perché dalle cave si estrae il materiale per banalmente costruire le nostre abitazioni e quindi bisognerà pur farci i conti. Ricordiamo che Modena e la provincia di Modena è una provincia abbastanza effervescente perché noi ce ne siamo occupati più di una volta e questo vuol dire che effettivamente a questa provincia e ai suoi cittadini sta molto a cuore l'ambiente. Allora, questo radioascoltatore si chiama Mario Franceschi e mi ha scritto: caro dottor Galullo, ma lei lo sa che nel mio comune sta per essere confermata un'attività estrattiva che porterà ad un gigantesco buco di oltre 1 milione di metri quadrati con una capacità estrattiva per i prossimi 10 anni di 5.450.000 metri cubi? No, caro Franceschi, non lo sapevo. E proprio per saperne di più, per approfondire questo argomento, io ho il piacere di dedicare 2 puntate a questo tema, partendo da chi? Dal comitato No alle Cave, e abbiamo il suo presidente collegato, il presidente Enzo Rubiani. Buongiorno Rubiani. Buongiorno. Ma ovviamente per parlarne abbiamo anche un altro gradito ospite che è già stato con noi nel passato, l'assessore all'ambiente della provincia di Modena, Alberto Caldana. Buongiorno Caldana. Buongiorno. Allora, partiamo subito dal comitato No alle Cave. Che cosa non vi convince di questo piano di attività estrattive, Rubiani? Allora, di questo piano ci sarebbero tantissime cose, ma proviamo a parlare dei fondamentali, no? Intanto parliamo subito della enormità del buco, così viene definito, no? Che è veramente immensa. Noi stiamo parlando di 140 ettari. Per dirlo a campi di calcio, perché noi siamo in campagna e gli ettari abbiamo un'idea di quanto siano, certo. Ma sono 280 campi da calcio, no? Quindi un'area enorme, diciamo. Un'area enorme, no? E stiamo parlando di un territorio, noi siamo a metà strada fra Modena e Bologna e quasi confiniamo con Vignola, no? È un territorio che produce frutta, no? Un territorio. Le famose ciliegie di Vignola, insomma. Bravo, ma non solo, no? Certo. Le prugne e tutte le altre cose, no? È un territorio che conosco ed è splendido. Esatto. Stiamo parlando di un territorio veramente prezioso dal punto di vista agricolo. E qua viene distrutto, almeno in un bel pezzo, no? Da questi buchi, no? Che poi rimarranno dei deserti. Ecco, però io le vorrei fare una domanda. Questo buco in parte già esiste lì, cioè non è che l'attività estrattiva nasce oggi. Per essere precisissimi, no? I sì. 140 ettari sarà il buco finale, perché ecco. 38-39, no? Sono già cavati, no? A una profondità di 10 metri. Il progetto prevede di cavarne 140 ettari, no? A una profondità di 15 metri. E questo a voi non piace, ovviamente. È un palazzo di 5 piani. Ecco, però lei è d'accordo con me, con la premessa che ho fatto, che da qualche parte però queste cave andranno pur messe e, attenzione, regolamentate, perché altrimenti si fa poi la fine della campagna. Non so se lei è mai stato in campagna, ma il territorio di Caserta sembra una gruviera. Quando lei mi parlava prima di abusivismo, no? Sì. Ma adesso mi piace di più il concetto della groviera, no? Attenzione, perché noi stiamo parlando di una frazione del comune di Castelfranco, ma in effetti dovremmo andare a vedere un po' attorno, cioè se guardo molto vicino, sto parlando di un quadrilatero che sarà 7 km per 12 circa, in cui ci saranno 170 più 140, faccia lei il conto, no? Comunque tornando ai campi di calcio diventano 580 campi di calcio. Sì, insomma lei dice un territorio che è macchiato, cioè, o addirittura grugliere, esatto, no? da questi buchi. Allora, lei ha giustamente, correttamente espresso la sua opinione, netto no a questo ampliamento. Per come conosco io quel territorio, devo dire che è un territorio veramente fantastico, anzi invito tutti i radioascoltatori a passarci e spenderci qualche giorno, ci sono moltissimi agriturismi, ci sono moltissimi alberghi, insomma è una zona veramente che rilassa il cuore e la mente, però servono queste cave. E allora io chiedo all'assessore Caldana che cosa ha da dire a chi si oppone a questo ampliamento, perché questo ampliamento è necessario nella sua provincia, assessore? Ma noi abbiamo calcolato in modo molto preciso qual è il fabbisogno dei prossimi 10 anni rispetto alla costruzione di infrastrutture, di case e quant'altro, e su questo abbiamo individuato il fabbisogno che ovviamente va cercato, e noi riteniamo che vadano individuate le risorse anche sul territorio, ovviamente là dove la risorsa è presente. Crediamo che se l'attività estrattiva viene strettamente regolamentata con le profondità, adesso chi conosce questo tema sa che parlare di profondità che vanno dai 10 massimo 15 metri sono profondità assolutamente esigue rispetto a quello che accade nel panorama non solo nazionale, dove si scava ben molto più a fondo, che è corredato da tutta una serie di studi e approfondimenti fatti dall'Agenzia regionale per l'ambiente, dall'università, rispetto alla salvaguardia delle falde e rispetto anche ai problemi di ripristino. Ecco, questo è un aspetto fondamentale, dico, il ripristino dei luoghi. Il Presidente del Comitato ha ragione su una cosa. Nel passato questi ripristini non sono stati fatti in modo, non sempre in modo corretto, soprattutto in quel territorio. Ora, la necessità di avere un perimetro così ampio non è soltanto dettato dal fatto di poter cavare, ma anche di poter imporre ai cavatori di ripristinare ciò che fu scavato in passato. Quindi diciamo così una sanatoria successiva. No, la necessità di intervenire con un ripristino efficace. Noi abbiamo nella nostra provincia esempi di ripristini efficaci che oggi sono diventati parchi, riserve naturali, zone di protezione speciale e quant'altro, e quindi dimostrano che si può, da un'attività indubbiamente impattante, anche ricavare degli elementi positivi dal punto di vista ambientale. Ecco, io la fermo un secondo, assessore Caldana, perché anche la sua posizione è chiara. Torno da Rubiani per chiedergli, fargli due domande maliziose, ma non è che magari ci sarà qualcuno che ha interesse che proprio il proprio terreno non venga magari espropriato e quindi, come dire, c'è un interesse anche di parte? No, assolutamente. Cioè, semmai l'interesse è rovescio rispetto a quello che ha detto lei. Cioè, qui i cavatori pagheranno il terreno 10 volte, grosso modo, dalle 8 alle 10 volte, no? Quello che è il valore commerciale agricolo, no? Quindi, insomma, ci sarà anche un guadagno da parte di chi? Diciamo che i coltivatori diretti sono poi 7-8 famiglie, sì. Almeno parliamo del nostro buco, stiamo parlando di più in questo momento. Per cui dal punto di vista dei venditori di terreno, quelli non vedono l'ora, perché a quei livelli lì è come aver fatto un 13 al Totocalcio. Ecco, un'altra domanda le faccio, ma se come sembra, e poi come ascolteremo anche domani dal sindaco di Castelfranco Emilia, questo progetto andrà comunque avanti pur con tutte le attenzioni eccetera eccetera, cosa farete voi? Cioè emulerete Napoli e Chiaiano che dice no alle cave, vi opporrete con delle barricate, oppure democraticamente direte, come credo sia doveroso, è stato così deciso, ce ne faremo una ragione? No, attualmente non siamo proprio sul discorso di farcene una ragione, perché è una roba pazzesca, non ha senso. Riguardo il discorso delle escavazioni, quando mi dicono la ghiaia serve, no? Vorrei rispondere un attimino a Caldana, che è un po' il papà perlomeno politico di questa, di questo progetto qua, che abbiamo avuto una ragazza che è andata in ferie, no? Poco dopo che era scoppiato il problema delle cave, no? Se n'è andata in Francia, se n'è andata in Spagna, no? E aveva questo problema qua nella testa, si guardava un po' attorno, no? Dice, io ho visto Francia, Spagna e anche un pezzo di Portogallo, no? Le cave tutte in zone assolutamente sassose, non produttive, aride, lì scavavano la cosa. Ecco, e la, questo è chiaro. Cioè, non è possibile. Ecco, questo è chiaro. Il problema è che l'Italia di queste zone ne ha non poi così tante, forse non è ottimo il materiale che si trae. Comunque la posizione è chiara, Rubiani. Caldana, lei che cosa ha da replicare? Le lascio l'ultima parola dopo aver ovviamente ringraziato Rubiani e ricordare ai miei radioascoltatori che domani torneremo su questo argomento. Colgo anche l'occasione per ricordare la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Prego Caldana. Guardi, io credo che ovviamente io rispetto completamente le idee del signor Biani e delle persone che lui rappresenta. Va detto che tuttavia quest'idea che comunque i problemi debbano essere spostati altrove per trovare soluzione è un'idea che capisco che può essere comoda per un ragionamento, ma non lo è sicuramente per chi amministra, nel senso che noi non possiamo spostare i problemi, abbiamo bisogno di affrontarli e di risolverli. Purtroppo ultimamente c'è molto questa idea che spostando un po' più in là il problema si trovi la soluzione, ma ahimè non è così che si risolvono bene, le questioni. Bene, anzi male, perché non c'è comunque una sintesi nel ragionamento che abbiamo fatto, ciascuno rimane della propria opinione, ma ci torniamo domani. Grazie in regia a Valeria Bernardi, in studio a Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno. Ti penso sempre, ti sono vicina, sei il centro del mio mondo. Lo sapevo, hai conosciuto un'altra! Ma che altra? Ho conosciuto il gruppo assicurativo Arca, un gruppo che mi offre soluzioni per proteggere i nostri valori più importanti: casa, famiglia, salute e patrimonio. È affidabile, concreto, trasparente e vicino. Quanto vicino? Lo trovi in 1500 sportelli bancari e 150 agenzie assicurative. Gruppo assicurativo Arca, il centro del nostro mondo. Sei tu. www.arcasicura.it. Buongiorno, cerco un armadio. Ma lei è sposata? Cosa? Ha più bisogno di spazio lei o suo marito per i vestiti e le cravatte? Ah, ha la passione delle scarpe o delle borse? Preferisce una cabina vista o scomparti separati? Guardi, tiene tutto sott'occhio nei cestelli o ben ordinato nei cassetti? IKEA ti offre un'ampia scelta di soluzioni per la tua camera da letto. Molto più di quello che pensi, a molto meno di quello che credi. E dal lunedì al venerdì fino al 17 ottobre l'armadio Open costa solo 253 euro. Il 30% in meno. Per informazioni vai sul sito IKEA. IKEA, qualità al miglior prezzo. Ai tempi di Garibaldi non era semplice gratificare i collaboratori. Capo, parlo a nome di tutti. Finora ci hai dato solo delle gran camicie rosse, eh? Garibaldi, come ingiandivo, vogliamo di più. Di più, di più. Calma, miei fidi. Di più non è possibile. I ticket compliments non li hanno ancora inventati. Ticket compliments, i buoni regalo per un dono su misura. Scoprili anche tu su www.accorservices.it. Su, ragazzi, un goccetto di Marsala per tutti. Ticket compliments, una conquista dell'umanità. Scorte introvabili, inefficienze, alti costi di personale per la movimentazione, scaffalature non certificate. Chiedi a Modul Block, leader nella logistica di magazzino. Modul Block, membro certificato ACAI CISI, il risolutore qualificato dalla scaffalatura all'impianto automatico più complesso. Trasforma il tuo problema in opportunità. Chiedi a Modul Block. Modulblock.com. Tecnologie e logistiche di magazzino. Tutto si decide adesso, o noi o il colesterolo. Signor sì, signore! Ora andatela fuori e mi dimostrate di cosa siete capaci. Cereali Optivita, adesso! Sì! I cereali Kellogg's Optivita sono diversi perché ricchi di beta-glucano, una fibra che ti aiuta a ridurre il colesterolo insieme a una vita attiva e un'alimentazione povera di grassi. Kellogg's Optivita ti aiuta a ridurre il colesterolo. Buffon, quale sarà il protagonista della stagione? Ma io punto su quel fuoriclasse che gioca al centro. È agile, scattante e macina tanti chilometri senza fermarsi mai. Fiat Fiorino è Van of the Year 2009. Oggi con l'esclusivo motore 1.3 multijet da 75 cavalli, tuo con anticipo 0 e 48 rate da 196 euro. Assicurazione furto, incendio e casco compresa. TAN 6,95, tasso leasing 7,06%. Fiat Fiorino, i migliori arrivano dove gli altri non arrivano. Mikado Film presenta: se quello che devi dire non è più importante del silenzio, allora taci. Un film di Laurent Cantet. Se soltanto potessi scrivere cose così interessanti sul tuo foglio anziché sul braccio. La classe, film Palma d'Oro al Festival di Cannes. Pretende un po' troppo. Io la penso come lei. Dal 10 ottobre al cinema. Ascolta, ti va un dessert, eh? Un piccolo, simpatico, delizioso dessert da gustare fresco fresco in tutta libertà? Allora, prendi un rinoceronte. Portalo a casa e mettilo nel frigo. Ti sembra complicato? Allora prendi Kinder Choco Fresh, il piccolo dessert a forma di rinoceronte. Croccante cioccolato fuori e dentro un cremoso ripieno al latte e nocciole. Kinder Choco Fresh, il desserino. Art Verona, la straordinaria fiera d'arte moderna e contemporanea. I grandi artisti, le migliori gallerie e un entusiasmo di mostre, performance, eventi curati dai grandi esperti del mondo dell'arte. Verona vi attende da giovedì 16 a lunedì 20 ottobre. Artverona.it. Il segnale orario vi è offerto da... La nostra energia è la tua forza. Vai su multiutility.it. Le 6:58. GR24, il sole 24 ore. Preoccupazione per il lunedì nero delle borse. Milano cede più dell'8%, Wall Street oltre il 3%, anche Tokyo stamani è sotto del 3%. L'Italia rilancia il fondo comune di salvataggio, ma l'Europa non trova l'accordo. Crack Parmalat, chiesti 13 anni per Calisto Tanzi. Nobel della medicina, premiate ricerche su AIDS e papillomavirus. Buongiorno dalla redazione di Adriana Fracchia. La crisi finanziaria entra a gamba tesa in Europa. I mercati non hanno creduto al piano statunitense prima e alle indicazioni emerse al G4 di Parigi poi. Bruciati altri 450 miliardi. La cronaca della giornata. Una giornata memorabile che passerà alla storia come una delle peggiori dal crollo di Wall Street del 1929. Neanche dopo gli attentati dell'11 settembre gli investitori erano voluti scappare così dal mercato azionario. Mentre la politica del vecchio continente tenta di orchestrare una risposta comune alla crisi finanziaria, il mercato ieri ha voluto guardare oltre, dando spazio ai timori di una recessione profonda, generale, che a questo punto appare inevitabile a tutti. La presa di coscienza dei governi europei dell'entità della crisi, le misure di rafforzamento delle garanzie sui conti correnti, presupposti sinistri che non possono che produrre un avvio di seduta pessimo e una conclusione addirittura peggiore. Alle 9 del mattino Parigi, Londra, Francoforte mettono subito a segno un calo del 5%. Poi parte Milano, che non digerisce il maxi aumento di capitale varato nel fine settimana da Unicredit. Piazza Cordusio segna meno 15, Piazza Affari meno 6. Così fino a metà giornata. Gli operatori aspettano con il fiato sospeso Wall Street. Da Wall Street non arriva alcun aiuto, tutt'altro. Il piano Paulson continua a non convincere nessuno. Il Dow Jones